Bene, allora, lezione, si parte in posizione supina e poi si fanno tutti i movimenti del bacino tipo breakdance. Chiaramente ognuno si riposa quando ha bisogno, mai forzare, fate quello che riuscite a fare. Allora, cominciate ad osservare gli appoggi in posizione supina partendo dai piedi e arrivando fino alla testa. Osservate come appoggiano i talloni, i polpacci, quanto distano la parte posteriore del ginocchio e la coscia da terra. Come appoggia il bacino a destra, a sinistra. E poi come è messo il coccige, l'osso sacro, quanto dista l'arco lombare da terra. Come appoggiano le vertebre toraciche, le costole, le scapole e come è messo il collo, come tenete la bocca, come appoggia la testa e infine come sono messe le spalle e le braccia. Ok, adesso facciamo una prova che rifaremo anche alla fine. Rotolate su un fianco e arrivate seduti con le gambe allungate e un po' aperte, divaricate. E da adesso in poi, dal bacino ai piedi, state sul pavimento, altrimenti il materassino vi blocca, vi impedisce di muovervi. Quindi questa lezione, se possibile, vi consiglio di farla, se la fate a casa, su una superficie liscia, tipo parquet, linoleum, o se c'è caldo, marmo. Ok, allora gambe allungate, un po' divaricate, mettete la mano destra appoggiata per terra, a destra del ginocchio destro, la mano sinistra appoggiata per terra, sinistra del ginocchio destro. Ok. E adesso chi può, tenendo le mani appoggiate, chi non può, staccando la mano destra, ognuno fa quel che può, secondo le proprie possibilità, piegate la gamba destra in modo da far passare la gamba al di sotto del braccio destro, tra il braccio e il tronco, farla uscire ed allungarla al di fuori del braccio destro. E quando l'avete allungata, la ripiegate, la fate passare sotto il braccio e la allungate avanti in posizione di partenza come avete appena fatto e continuate a farlo e osservate in che modo piegate la gamba. Ci sono almeno tre modi. C'è chi, quando parte con la gamba destra allungata, prima piega il ginocchio e fa uscire il ginocchio e poi il piede e rientra prima col piede e poi il ginocchio, e c'è chi invece esce ruotando indentro il ginocchio, uscendo prima col piede e poi allungando il ginocchio e la gamba. E quando torna, infila dentro prima il ginocchio e poi il piede. E c'è chi invece non fa nessuno di questi due, ma da gamba allungata avanti, piega la gamba dritta appoggiando la pianta del piede, quindi la gamba è piegata, e fa semplicemente uno spostamento della gamba e del braccio al di qua e al di là della gamba per allungare la gamba in dentro e in fuori. Ognuno veda qual è il suo modo e ognuno veda cosa di fatto muove, se muove solo la gamba. Sempre l'idea che il movimento di una parte è il pretesto per muovere tutto. Quindi osservate se muovete solo la gamba destra o forse anche l'anca destra, il bacino, la schiena, eccetera, eccetera. E poi mettete le mani una al di fuori e una al di dentro della gamba sinistra e fate la stessa cosa vedendo come viene il movimento dall'altra parte. Osservate se tenete la bocca morbida. Probabilmente se lasciate la bocca morbida, quasi con la lingua fuori, mandibola che cade, state meno contratti e la gamba si muove meglio. Sempre osservando quale di questi tre modi voi prediligete. Ok, adesso lasciate le gambe allungate avanti, mettete le mani al di fuori delle due gambe, delle due ginocchia, e provate a muovere una gamba al di fuori del braccio destro e una al di fuori del braccio sinistro contemporaneamente, una alla volta, ma tutte e due dentro e tutte e due fuori. Vedete cosa fate e come lo fate, senza forzare, lasciando che si muova la schiena, osservando se state facendo lo sforzo sollevando le spalle. Ok, e vi riposate supini a pancia in su. Ed ora iniziamo a divertirci. Ok, da lì, col movimento più semplice, più piacevole e facile possibile, arrotolate a pancia in giù. Allora, troviamo le varie direzioni per evitare dopo di non capirci sull'orientamento. Appoggiate la fronte un secondo per terra. Adesso avete la fronte appoggiata, sollevate la testa e guardate avanti. Ok, avanti. Quella è la parete davanti a voi. Ok? Durante l'avanzamento della lezione, quando dico guardate la parete davanti a voi, si intende questa verso la quale avete guardato adesso. E ad un certo punto della lezione, qualsiasi movimento si farà con le gambe, il bacino, le mani e la testa, saranno sempre in direzione della parete davanti a voi, che è questa. Ora ruotate la testa a destra e appoggiate la guancia sinistra, mettete i gomiti sollevati come per fare piegamenti sulle braccia, sollevate l'anca destra in modo che tiri la gamba destra e la faccia piegare. Poi la allungate. Testa a destra. Testa a destra. A parte lei, voi tenete la testa appoggiata a terra. E se potete, tenete le gambe per terra. Ok, continuate a muovere l'anca destra indietro, quindi a sollevare la parte destra del bacino che tira e fa piegare la gamba destra, lasciando che il ginocchio stia appoggiato a terra e che il bordo interno del piede s'appoggia al pavimento. No, la gamba destra si piega col ginocchio appoggiato e il bordo interno del piede appoggiato a terra, ben piegata. Ripeto, a parte lei, piegate bene la gamba in modo che il ginocchio sia in fuori sul prolungamento dell'anca, che la coscia sia quasi perpendicolare al tronco, il tronco perpendicolare alla coscia. Ok, adesso man mano che lo fate, osservate cosa fa la gamba sinistra. Vi accorgerete che la gamba sinistra ruota in fuori in modo che il tallone va in fuori, si appoggia in un certo senso il bordo esterno del piede e il dorso del piede. E ora continuate a farlo piegando la gamba destra, lasciando che la gamba sinistra ruoti in fuori e che la gamba sinistra si pieghi un po' in modo da arrivare col ginocchio sinistro verso il ginocchio destro. Quindi tutte e due le gambe sono piegate, una davanti all'altra, gamba destra avanti, il ginocchio sinistro si piega e va come a infilarsi nel buco della gamba del ginocchio destro. Dopodiché allungate prima la gamba sinistra e poi la destra. Una gamba alla volta, non insieme. No, non ancora così. Piegate la gamba destra che viene tirata dal bacino, la gamba destra fa ruotare in fuori e il bacino va a ruotare in fuori, la gamba sinistra che comincia a piegarsi e avvicina il ginocchio sinistro dietro al ginocchio destro. Quindi entrambe le gambe sono piegate, la gamba sinistra piegata dietro la gamba destra, dietro, non è sotto ma dietro. E riposate un po' come volete, supini, proni, come vi trovate meglio. Mezzo fianco. E respirate. Osservate se ci sono delle parti che irrigidite. Chi non è prono ritorna prono, pancia in giù, sempre con la testa a destra e proseguiamo con la sequenza, quindi muovete l'anca destra, sollevate la terra, L'anca tira, la gamba destra che si piega, il bordo interno del piede destro si appoggia sul pavimento. La gamba destra piegandosi fa sì che la gamba sinistra si ruoti e che anche il ginocchio sinistro si avvicini dietro, piegato con la gamba sinistra piegata al ginocchio destro. E questa volta arrivate con la gamba sinistra appoggiata sotto la gamba destra, quindi è come se foste sul fianco sinistro con le gambe piegate una sopra l'altra, gomiti sollevati e mani appoggiate per terra. E poi, quindi non è dietro il ginocchio sinistro come prima, ma è sotto, e per arrivare in quella posizione, come se fosse sul fianco sinistro, si solleva un attimo il ginocchio destro in modo da far passare il ginocchio sinistro sotto e che il ginocchio destro si appoggi sopra, uno sopra l'altro, come se fosse sul fianco sinistro. E poi da lì allungate prima la gamba sinistra e poi la destra e ritornate proni e continuate a farlo. Sollevate l'anca destra che fa piegare la gamba destra appoggiando il bordo esterno del interno del piede destro, la gamba sinistra contemporaneamente, vi accorgete che ruota col tallone in fuori e si avvicina pian piano piegandosi dietro il ginocchio destro, e ad un certo punto il ginocchio destro leggermente si solleva per far sì che la gamba sinistra vada sotto la gamba destra e siete con le gambe piegate una sopra l'altra sul fianco sinistro. Dopodiché tornate allungando prima la gamba sinistra e poi la destra e continuate a rifarlo, mettendo attenzione non solo al respiro e a quali parti potete lasciare andare, ma cominciando a mettere attenzione al movimento che fa il bacino. Vi accorgerete che partite da pancia in giù con bacino parallelo orizzontale a terra e pian piano arrivate sul fianco sinistro, quindi il bacino è perpendicolare a terra. Ok, la prossima volta, quando siete arrivati con una gamba sopra l'altra, continuate con la gamba sinistra e la muovete più in su della destra in direzione del torace. E poi allungate la gamba sinistra fino ad arrivare a gamba sinistra allungata e poi la destra e arrivate a pancia in giù. Quindi è lo stesso movimento di prima, solo che questa volta la gamba sinistra non si ferma sotto la destra messa sul fianco con la gamba sopra l'altra, ma la gamba sinistra continua e va oltre, più in su verso il torace, verso la testa. E pian piano, man mano che lo fate, con l'aiuto delle mani aggiustate il movimento in modo che sempre più la gamba sinistra vada più in su della destra, premendo con le mani il ginocchio sinistro va in su, la pianta del piede sinistro si appoggia sopra il ginocchio destro e premendo con le mani sollevate la testa e arrivate seduti guardando avanti la parete davanti a voi, quella che vi ho fatto guardare all'inizio, non quella dove siete girati di lato adesso, ma quella che vi ho fatto guardare all'inizio. Quindi siete seduti con le due mani appoggiate avanti verso la parete avanti a voi, col tronco girato verso la parete avanti a voi, e quando arrivate seduti siete in un certo senso con le ginocchia e il bacino ruotato avanti, con la pianta del piede sinistro appoggiato sulla coscia e il ginocchio destro. Quindi siete girati avanti anche col bacino. Voi siete un po' storti verso destra. Poi da lì scendete con la testa, piegate le braccia, appoggiate la guancia sinistra, il torace, l'addome, allungate la gamba sinistra in basso fino ad arrivare proni e poi la destra. La destra non rimane tesa, ma è piegata ed è l'ultima ad allungarsi per arrivare proni. E da lì di nuovo con la testa a destra, piegate la gamba a destra, sollevando l'anca a destra e appoggiando il bordo interno della gamba. Lasciate che la gamba a sinistra si pieghi, si avvicini al ginocchio destro. La gamba, no Andrea, la gamba destra è piegata, la gamba sinistra va sotto il ginocchio destro, come se fosse sul fianco sinistro, la gamba sinistra poi va oltre verso il torace e in questo momento contemporaneamente aggiustate tutto il corpo in modo che le mani spingano e arriviate seduti sollevando testa, torace, che il bacino si giri un po' verso avanti, il bacino si giri un po' verso avanti, quindi il ginocchio sinistro non è verso destra ma è un po' girato verso avanti in mezzo alle mani e la pianta del piede sinistro è appoggiata sul ginocchio e la coscia destra. E poi scendete con la testa, appoggiate la guancia sinistra, piegate le braccia, appoggiate il torace, l'addome e allungate la gamba sinistra verso il basso e poi la destra. Quindi sentirete che c'è come una specie di rullio, di cerchio di movimento circolare che si fa con il bacino. Da orizzontale passa a perpendicolare sul fianco sinistro e poi arrivate seduti sugli ischi guardando avanti. Da pancia in giù arrivate avanti. Quando arrivate avanti non ho ancora visto il ginocchio sinistro orientato avanti, non di lato a destra, avanti in mezzo alle due mani. Quindi c'è come un aggiustamento di tutto il corpo per cui contemporaneamente al muovere il ginocchio sinistro in su verso la pancia, mettere la pianta del piede sinistro sul ginocchio e la coscia sinistra e a premere le braccia e a sollevarli, vi aggiustate in modo da ruotare con tutta la colonna vertebrale, il corpo e il bacino, in modo che il ginocchio sinistro, quando siete seduti, non è verso destra, ma indirizzato verso la parete davanti a voi. È indirizzato, appoggiato per terra, in mezzo alle due mani, indirizzato verso la parete davanti a voi. Quindi anche la pancia, anche il bacino, è girato avanti, non è girato avanti solo il torace ma anche il bacino. E poi tornate. Siete a pancia in giù, se avete bisogno vi riposate anche a pancia in su, come preferite. Ritornate a pancia in giù. Testa sempre a destra. Fate tutta la sequenza fatta fino adesso. Quindi testa a destra, gomiti sollevati, mani appoggiate. No, sollevate l'anca a destra, che fa piegare la gamba destra, ma il ginocchio destro sta appoggiato a terra, il bordo interno del piede destro viene strisciato sul pavimento, la gamba sinistra si piega e si avvicina al ginocchio destro. Il ginocchio destro si solleva leggermente, arrivate con una gamba sopra l'altra come se fosse sul fianco sinistro. La gamba sinistra va avanti e ruotate bacino e torace mentre spingete con le mani e guardate nella parete davanti a voi. E questa volta aggiungiamo il movimento della gamba sinistra che fa sì che il piede sinistro si allunghi fino ad arrivare con la gamba sinistra tesa avanti in mezzo alle due mani. Quindi siete seduti con la gamba sinistra allungata avanti nella parete avanti a voi, non in diagonale a destra, no, non in diagonale. Io vedo persone sedute in diagonale a destra. Arrivate seduti allungando la gamba sinistra e il corpo verso la parete davanti a voi, verso la parete verso la quale avete guardato all'inizio, e poi da lì ripiegate la gamba sinistra, fate uscire il piede, piegate le braccia, appoggiate la guancia sinistra, il torace, l'addome, allungate la gamba sinistra prima e poi la destra e arrivate proni. E lo rifate. Gamba destra piegata, la sinistra si piega, va dietro piegata, ginocchio destro, poi sotto e poi va più in su del ginocchio destro, va sotto torace, spingete con le mani e contemporaneamente arrivate seduti mentre appoggiate la pianta del piede sinistro sul ginocchio e coscia destra. Dopodiché, guardando la parete avanti a voi, allungate la gamba sinistra avanti in mezzo alle due mani. Dopodiché di nuovo piegate la gamba sinistra, fate uscire il piede sinistro verso destra, sotto il piede destro, abbassate la testa, l'appoggiate con la guancia sinistra a terra, appoggiate il torace, l'addome e allungate prima la gamba sinistra e poi la destra. E lo rifate tutto e aggiungiamo ancora un movimento. Per cui quando arrivate seduti, allungate la gamba sinistra avanti, in mezzo alle due mani, e poi anche la destra. Quindi arrivate seduti con entrambe le gambe allungate avanti, in mezzo alle mani. Prima passa la gamba sinistra, e poi la destra. E osservate cosa fate col bacino. Come è messo il bacino adesso? Vi accorgerete che siete seduti, appoggiati sugli ischi. E quando tornate, portando fuori prima la gamba destra, poi la gamba sinistra, riscendendo con la testa che ha girato a destra, appoggiando la guancia sinistra, appoggiando il torace, arrivando con la gamba sinistra più in su della destra, poi con la gamba sinistra sotto la destra e infine con la gamba sinistra allungata e poi con la gamba destra allungata, ritornate proni. E il bacino, da posizione seduta col peso sugli ischi, passa da posizione perpendicolare appoggiati sul lato sinistro a posizione orizzontale parallela al pavimento appoggiati sulla pancia, sull'addome. Quindi fa tutto un movimento circolare. E poi vi riposate supini, chi vuole lo fa un'altra volta, gli altri si riposano pancia in su. osservate se gli appoggi sono leggermente cambiati. Intanto vi apprezzerete ancora di più la posizione supina rispetto al solito. E se sentite un po' di tensione nel collo, ruotate la testa leggermente a destra e a sinistra. Un movimento di qualche millimetro è molto lento, molto piccolo. Chi è pancia in su, chi è pancia in giù, può stare anche a pancia in giù, come volete. Non è necessario tornare supini. Ok, ritornate proni a pancia in giù e questa volta girate la testa a sinistra, quindi appoggiate la guancia a destra, i gomiti sono sollevati, le mani appoggiate come per fare i piegamenti e ancora una volta lasciate che l'anca sinistra si sollevi, che tiri la gamba destra piegandola, no scusate, che tiri la gamba sinistra piegandola. Siete a pancia in giù con la testa girata a sinistra, sollevate l'anca sinistra, la quale tira la gamba sinistra, la fa piegare, il bordo interno del piede sinistro viene fatto strisciare sul pavimento per piegare la gamba e vi accorgerete che la gamba destra ruota in modo che il tallone destro ruota in fuori, si appoggia come il dorso del piede destro e il bordo esterno del piede. E continuate a fare il movimento e man mano permettete anche al ginocchio destro di avvicinarsi dietro al sinistro, alla gamba destra di piegarsi. In altre parole, sollevate l'anca sinistra che tira e fa piegare la gamba sinistra col bordo interno appoggiato a terra, il ginocchio sinistro man mano fa piegare la gamba destra si piega, il ginocchio destro si avvicina al sinistro e poi allungate la gamba destra, la tendete e poi la sinistra, una gamba dopo l'altra, non insieme. Sollevate l'anca sinistra, piegate la gamba sinistra. La gamba sinistra fa sì che la destra si ruoti col tallone in fuori, si pieghi e si avvicini col ginocchio destro, il ginocchio sinistro. E poi riallungate la gamba sinistra prima e la destra dopo. E la prossima volta aggiungete il movimento della gamba destra che oltre ad avvicinarsi dietro al ginocchio sinistro va ad appoggiarsi sotto. E come fa? Permettete al ginocchio sinistro di sollevarsi un pochettino in modo che il ginocchio destro possa salire e arrivate con una gamba sopra l'altra piegata come se foste sul fianco destro. Gomiti sollevati, mani appoggiate a terra, gomito destro e dietro al corpo. Movimento fluido, come se fosse una danza. Ed ora la prossima volta rifate tutta la sequenza, ma permettete al ginocchio destro non solo di arrivare sotto la gamba sinistra, una gamba sopra l'altra, ma di muoversi più in alto della gamba del ginocchio sinistro in modo che vada verso il torace, verso la testa, il ginocchio destro si muove verso la pancia, il torace, e poi si riallunga la gamba destra per prima e poi la sinistra. Però quando allungate la gamba destra, la gamba sinistra è ancora piegata. E man mano, visto che l'avete fatto dall'altra parte, man mano che la gamba destra oltrepassa la sinistra, osservate se riuscite a far sì che la pianta del piede destro vada ad appoggiarsi sul ginocchio e la coscia sinistra, che contemporaneamente le mani premano a terra e si sollevi la testa, e pian piano, come dicevamo prima, mentre in questo lasso di tempo tutto il resto del corpo si organizza in modo da arrivare seduti con le gambe piegate e il ginocchio destro, il bacino, il torace e la testa indirizzati verso la parete davanti a voi. Quindi il ginocchio destro è come messo appoggiato a terra tra le due mani, e invece il piede destro è appoggiato sul ginocchio e la coscia sinistra con la pianta. E continuate. E la prossima volta che arrivate seduti col ginocchio destro avanti in mezzo alle due mani, allungate il piede destro e la gamba destra avanti in mezzo alle due mani con la gamba sinistra piegata, dopodiché ripiegate la gamba destra, la muovete al di fuori del braccio sinistro verso il ginocchio con la pianta del piede fino ad appoggiarlo, scendete con la guancia alla testa in modo da appoggiare la guancia destra a terra, il torace, l'addome, allungate la gamba destra per arrivare proni e poi infine la sinistra. Ma la sinistra si allunga alla fine e rimane piegata più o meno fino a quando la gamba destra è allungata. E la prossima volta che arrivate con la gamba destra allungata avanti, rimanete fermi con la gamba allungata e allungate avanti in mezzo alle due mani anche la gamba sinistra e il piede sinistro. Quindi arrivate anche da questa parte seduti con le gambe allungate avanti e con tutto il corpo e la faccia verso in direzione della parete davanti a voi. E poi uscite prima piegando la gamba sinistra, poi piegando la gamba destra, continuando con la gamba destra che si allunga e poi con la sinistra che si allunga. Ok, adesso cambiamo l'orientamento, arrivate seduti con le gambe allungate avanti verso la parete davanti a voi e questa volta invece che tornare da sinistra, da dove siete arrivati, tornate uscendo verso destra. Quindi muovete il piede destro, piegando la gamba destra al di là e al di fuori del braccio destro, poi il piede e la gamba a sinistra. Appoggiate le mani, ruotate la testa a destra, appoggiate la guancia a sinistra, il torace, l'addome, allungate la gamba a sinistra e poi la destra. E quando siete proni, girate la testa a sinistra, appoggiando la guancia a destra e cominciate piegando la gamba a sinistra, poi la destra, arrivando seduti, allungando le gambe avanti verso la parete davanti a voi. Prima la destra, poi la sinistra e facendo tutto quanto il cerchio, uscendo con le braccia, con le gambe, scusate, verso destra. Quindi descrivete col bacino tutto un movimento circolare. Quando siete arrivati seduti con le gambe avanti, piegate la gamba destra e la portate in fuori a destra. E una volta che il movimento vi è chiaro, se volete potete aumentare la velocità e se volete potete anche sperimentare invertendo il senso del giro. Fate attenzione, ascoltate, percepite come si muove e come si orienta il bacino nello spazio durante tutta questa sequenza. Il lavoro è fondamentalmente nel bacino, che fa muovere tutto il resto. Il centro di potere del movimento. Partite da pancia in giù, con l'addome appoggiato a terra, appoggiate su un lato, arrivate seduti con la pancia avanti e appoggiate sugli dischi e poi appoggiate l'altro lato. Quindi scrive tutto un cerchio tridimensionale nello spazio. Vedete se avete invertito il senso, se vi interessa farlo. Se avete provato a modulare, cambiare la velocità e chi ha bisogno di riposarsi lo faccia anche se io non l'ho ancora detto. Non esagerate. Siete voi che sentite, vi rendete conto quando il vostro corpo è stanco e ha bisogno di una pausa. Io non sono dentro il vostro corpo. Ognuno è fatto unico e ripetibile, diverso dall'altro. Quindi anche i muscoli, il sistema nervoso, l'attenzione, eccetera, eccetera, sono diversi in ciascuno di noi. chi si riposa, osservi come appoggia a terra . Dopodiché facciamo il gran finale, vi mettete seduti con le gambe piegate verso la parete verso la quale guardavate prima. Partiamo in quella direzione così non vi sbagliate, altrimenti poi nello spazio ci si confonde. Allora, fino adesso abbiamo piegato la gamba, tenuto appoggiato le mani, i piedi, eccetera, eccetera. Adesso proviamo a fare il cerchio con un lavoro solo sul bacino. Quindi, ascoltate, vediamo se riesco a spiegarmi. Piegate le gambe. Ora, contemporaneamente, guardando sempre la parete davanti a voi e poi appoggiando sempre le mani verso la parete davanti a voi, contemporaneamente staccate i piedi, li muovete a sinistra e appoggiate le mani per terra, tutte e due a destra, guardando verso la parete e andando come a pancia in giù, guardando verso la parete. A pancia in giù. E quando siete a pancia in giù, continuate verso destra, con le gambe piegate, staccando i piedi, e ritornate seduti, guardando verso la parete davanti a voi. In altre parole, lo stesso giro di prima fatto con i piedi e le mani staccate, partendo da quella posizione. Provate. Tu stai a riposo. Chi non ha capito? Allora, gambe piegate. Adesso, sempre con la testa, guardate verso la parete davanti a voi. Sempre appoggiate le mani nella direzione della parete davanti a voi. Ok? Questi sono i due punti fermi. Dopodiché, contemporaneamente, tenendo questi due punti fermi, contemporaneamente staccate i piedi e portate piedi e gambe a destra e appoggiate piedi e gambe a sinistra e contemporaneamente appoggiate mani a destra e arrivate a pancia in giù, continuando con le gambe piegate verso destra e arrivando di nuovo seduti guardando avanti. Quindi vi accorgerete che man mano che avete capito c'è tutto un gioco che state facendo col bacino. Rullate sulla pancia da destra a sinistra, sul fianco sinistro, poi seduti, poi sul fianco destro, poi di nuovo pancia in giù da destra a sinistra. Ci siamo? E chi vuole può aumentare la velocità. E chi vuole può provare a farlo nell'altro senso. Quindi partire da seduti, guardando avanti e contemporaneamente muovendo i piedi e le gambe a destra, le mani appoggiate a sinistra in direzione della parete davanti a voi. E continuate descrivendo questo giro come i ragazzi che si vedono a volte per le strade che ballano break dance, solo che loro lo fanno anche sulla testa. E riposate un po'. l'avete dato. Adesso rifacciamo la prova. Vi sdraiate su pini e riposate, dopodiché rifacciamo la prova e vediamo come viene adesso il movimento iniziale. Ok, rotolate su un fianco, arrivate seduti con le gambe allungate ed aperte e le due mani, la destra a destra del ginocchio destro, la sinistra a sinistra del ginocchio destro, e provate a muovere il piede destro e la gamba destra al di dentro e al di fuori del braccio destro. Poi provate a fare la stessa cosa con la gamba sinistra. E poi, se volete, con tutte e due. Gambe allungate, avanti, le muovete un braccio al di fuori di una gamba, l'altro al di fuori dell'altra. E muovete le gambe dentro e fuori. Ok, vi sdraiate supini e osserviamo gli appoggi. Cominciate partendo dai piedi, dai talloni. Osservate come appoggiano i polpacci. La parte posteriore del ginocchio, della coscia. Come appoggia il bacino destra, sinistra. Poi come è messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare. Le vertebre toraciche, le costole, le scapole. Il collo, la bocca, la testa. E infine, come sono messe le spalle e le braccia. Dopodiché, lentamente, arrotolate su un fianco, vi alzate, osservate fermi in piedi come vi sentite e prima di andarvi a cambiare, provate a camminare un po' e osservate come si muovono il bacino e la colonna vertebrale.